Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi voglio raccontarvi la storia di un personaggio per molti versi veramente straordinario, un grande musicista, un grande cantante, un chitarrista virtuoso, però un personaggio anomalo nel panorama musicale, perché è un uomo poco conosciuto dal mondo del rock e della musica pop, e lo conoscono quelli che sono molto esperti del nascente movimento rock, diciamo dei primi anni 60, lo conoscono sicuramente i grandi appassionati dei Beatles, per il resto è uno quasi sconosciuto. È incredibile che lui non abbia avuto il successo che non solo meritava, ma soprattutto il successo che hanno avuto tutti coloro con i quali lui ha suonato e cantato, tutti quelli che lui ha tenuto a battesimo, e in particolare proprio i Beatles, che all'inizio lo chiamavano The Teacher, il maestro. Uno che viene chiamato il maestro dai Beatles, insomma, non può essere uno scadente. Peraltro una persona con la quale io ho fatto un bel po' di anni fa una cena molto piacevole, perché è un personaggio ovviamente che ha toccato e ha cavalcato la storia. Bene, oggi raccontiamo Tony Sheridan, grande musicista, compositore, cantante, chitarrista britannico, uno che ha fatto scuola e uno che ha insegnato a suonare la chitarra a George Harrison, che ha scritto canzoni con Paul McCartney, che aveva come batteristi Pete Best e Ringo Starr. Lui è stato una rock star negli anni gloriosi della Reeperbahn, che è la celebre via del quartiere di San Paolo ad Amburgo, da dove è partito tutto il movimento della rivoluzione musicale degli anni 60. Credo che noi abbiamo avuto un ruolo importante nel cambiamento dei gusti della gente, perché la rivoluzione di suonare 8 ore per notte e tutte le notti senza sosta ha fatto cambiare qualcosa. Ha fatto aprire gli occhi e le orecchie, specialmente ai più giovani. Ha fatto capire che stavano arrivando cose nuove. In Germania le novità arrivavano almeno un paio di anni dopo. Noi abbiamo portato la musica americana ad Amburgo. All'inizio copiavamo, certo, ascoltavamo i dischi americani e li facevamo uguali. Ma poi ci rendemmo conto che al pubblico tedesco non dispiaceva se facevamo dei cambiamenti, se cantavamo in maniera diversa. Anche perché noi una canzone che durava 2 minuti e mezzo, la cantavamo anche per 15 minuti, e in 15 minuti ne puoi fare di cose con canzoni come, che ne so, What They Say. And in 15 minutes you can do a lot with us. A song like What I Say. E pensate che quelli erano anni in cui i dischi si facevano andando in sala, si suonava, registravi, il cantante cantava e usciva il disco così, cioè rispetto a oggi, insomma, lì dovevi essere bravo veramente. Ma vediamo di scoprire meglio chi è Tony Sheridan, cosa ha rappresentato nella musica contemporanea. Anthony Esmond Sheridan McGinnity nasce il 21 maggio del 40 a Norwich, nella Norfolk Coast, come direbbero gli Stranglers, nella contea di Norfolk, ovviamente in Inghilterra. La sua è una famiglia di grandi appassionati di musica, classica soprattutto. Lui a 7 anni inizia a studiare il violino, poi passa alla chitarra e nel 56, a 16 anni, forma la sua prima band. È talmente bravo sia come chitarrista che come cantante che si trasferisce subito a Londra. Firma un contratto di 6 mesi al Two Eyes Bar di Soho, è un notissimo locale di due fratelli che si chiamano i Rani. E la voce corre, nel 58 è già ospite fisso in un programma televisivo molto seguito dai ragazzi, che si chiamava Oh Boy, il primo programma di musica per teenager in Inghilterra. Vedete, in quegli anni, insomma, i bimbi minchia ascoltavano musica veramente bella, e oggi forse no. Tony ha un primato straordinario, è il primo che suona la chitarra elettrica in un programma televisivo. È anche una grande cosa, perché la censura aveva vietato la chitarra elettrica in televisione, perché era uno strumento considerato pericoloso, la voce del diavolo veniva chiamata. Poi insomma la chitarra in quegli anni era palesemente vista come un prolungamento fallico, per cui non veniva apprezzata dall'Inghilterra post-vittoriana. Però lui suona bene la chitarra, è così bravo che i critici cominciano a parlare di lui, è un astro nascente. Questa è una registrazione per esempio originale del 5 aprile del 59, e immaginate il livello dei microfoni, dell'amplificazione, produzione degli strumenti in quegli anni, quindi bisogna veramente moltiplicare per mille il valore di nastri come questo. Comunque Tony Sheridan continua a suonare a Soho e proprio qui la vita gli offre, diciamo, il primo colpo d'ala, perché una sera Bruno Koschmider, proprietario di un locale molto famoso che si chiamava Kaiser Keller a Amburgo, sulla Reeperbahn, fa il suo ingresso nel bar, sta cercando una band per portarla a Amburgo. Siamo nel 60, un amico di Tony, Jane Haynes, conosce Koschmider e gli dice, mentendo, io ho una band. Così lui e Tony Sheridan mettono insieme in fretta una band di amici improvvisata, tra i quali un bassista che si chiama Colin Crowley, si scelgono un nome, The Jets, partono carichi di speranza alla volta di Amburgo. Il falco e il gabbiano. Siamo a Amburgo nel 1960, è un luogo in quel momento mitico, sono tutti lì perché lì ci sono i Beatles, ci sono anche i Rocchetti di Santino Rocchetti, ne abbiamo parlato, insomma è un posto che in quel momento per una congiunzione astrale particolarissima è diventato il centro del mondo e lì c'è anche il nostro protagonista, appunto Tony Sheridan, voce straordinaria, grande chitarrista con uno stile tutto suo che presto sarà copiato da molti musicisti, insomma le premesse ci sono tutte. Il suo gruppo si chiama The Jets, ha subito un po' di problemi perché alcuni ragazzi non hanno i documenti in regola, dopo pochi mesi se ne devono tornare in Inghilterra, però Tony e l'amico Colin Crowley rimangono a suonare a Amburgo al Kaiser Keller, hanno grande successo. Ascoltate cosa racconta Tony Sheridan durante un'intervista del 2003, proprio mentre si trova davanti all'ingresso del mitico Kaiser Keller. Yeah, okay guys, this is where we got off the train and Sì, ragazzi, è qui. Prendemmo un taxi in una piovosa serata tipica del clima di Amburgo. Arrivammo qui e ci domandammo, ma dov'è il locale? Il ragazzo che era venuto a prenderci ci disse, è lì sotto. Prendete tutti i vostri bagagli, le chitarre, la batteria, entrate dal retro. Vi prendete una salsiccia, un bockwurst, una birra e poi iniziate a suonare. Così iniziamo a suonare e non ci fermammo per mesi. Ecco, è qui che è iniziato tutto, al Kaiser Keller. È stato tanto tempo fa. Yes, it's a long time ago. Beh, io provo invidia per quel mondo, per quel periodo che io non ho potuto vivere, però credo che qualsiasi musicista avrebbe voluto essere lì con in mano un bockwurst e un boccale di birra e degli ubriaconi davanti nell'Amburgo del 1960. E lì invece c'è lui, c'è il nostro protagonista, Tony Sheridan, che non sa una parola di tedesco, non ha un soldo, che ha spezzato il cuore di sua madre partendo, come dirà lui stesso, ma con sé quello che conta di più, la sua passione. It was hard work, very hard work. È stata dura. Un duro lavoro per pochissimi soldi. Eravamo come degli schiavi, ma non avevamo alternativa. In Inghilterra non c'era possibilità. Qui suonavamo tutta la notte, ma almeno qualcosa ci pagavano. Dormivamo in un buco senza aria. Ma chi aveva bisogno dell'aria? Avevamo la birra, la musica. Avevamo noi stessi, il rock and roll. We had each other. Rock and roll. La birra, la musica, il rock and roll, adesso invece ci sono gli air monitor e il truccatore. Tony Sheridan ha una personalità complessa, è un grande musicista, ma è anche, diciamo, una testa calda, beve parecchio, a volte magari si scorda di portare la chitarra, si ubriaca sul palco, poi scende tra il pubblico a baciare le ragazze e crea scompiglio, però è talmente bravo che gli viene perdonato tutto, la gente arriva tutte le sere, riempie il piccolo locale per vederlo, per sentirlo, per essere presente e anche per sapere un po' che cosa combinerà quella sera. È un personaggio, attira l'attenzione di tutti i musicisti che in quegli anni sono lì a Amburgo, perché la Reeperbahn, la via del quartiere a luci rosse di San Paolo, è il fulcro di quella rivoluzione musicale che sta per scoppiare. E Tony ha qualcosa di speciale, ha la sua tecnica straordinaria, insomma tutti cercano di copiarlo e lo chiamano The Teacher, il maestro. E tra i ragazzi di quelle band sconosciute che arrivano soprattutto dall'Inghilterra e che lui comincia a ingaggiare come musicisti, ci sono dei giovanotti che vengono da Liverpool, si chiamano John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best e Stuart Sutcliffe. E sono loro i Beatles nella prima formazione, prima che Sutcliffe abbandonasse il gruppo, rimanendo a Amburgo con la sua bellissima Astrid, la fotografa dei Beatles, quella che inventò la pettinatura, e prima che Peter Best venisse sostituito da Ringo Starr, che peraltro era già lì perché suonava con Tony Sheridan in quei primi anni 60. Bene, comunque i Beatles sono ad Amburgo, hanno un contratto all'Indra, che è un altro locale dello stesso quartiere, e sono innamorati di Tony Sheridan, lo vanno a ascoltare, sono dei fan di Tony Sheridan, di The Teacher, e appena possono scappano al Kaiser Keller o al Top Ten Club, e a volte suonano assieme, e quando la gente della etichetta discografica Polydor, Bert Kanfer, li vede, propone di realizzare una registrazione, cioè propone ai Beatles di accompagnare Tony Sheridan. Loro naturalmente accettano, suonano con il loro idolo. Così nel settembre del 61 nasce una canzone che avrà un peso enorme nelle vite di tutti, è una cover di un brano classico, My Bonnie. My Bonnie, sul lato B c'è una canzone che si chiama The Saints, che è un gospel straordinario, tradizionale, statunitense, sarebbe When the Saints Go Marching In. Insomma, in assoluto questo è il primo disco dei Beatles, anche se in quel momento loro sono ancora un gruppo d'accompagnamento, la loro partecipazione viene citata solo nel retro della copertina e non con il nome Beatles, bensì Beat Brothers, perché in tedesco il nome ha una somiglianza imbarazzante con il termine Beatles, che è un modo per indicare il pene. Insomma, i produttori decidono di cambiare, o se no sarebbe stato tipo Tony Sheridan e i Cazzari, che non andava benissimo. E i giovani tedeschi invece, poi, proprio per questo motivo, hanno amato molto il gruppo, e Tony Sheridan ricorda l'importanza di My Bonnie. Yeah, in those days, of course, all we wanted to do was make a record. In quei giorni l'unica cosa che volevamo era fare un disco, qualsiasi disco, solamente andare in studio e fare un disco. E io lo feci un disco, feci un singolo con i Beatles, My Bonnie. Andai al negozio di dischi lì vicino e lo comprai, pagai 5 marchi per il mio disco. E poi me lo guardavo, lo accarezzavo. Era una strana versione. Bert Kempfert aveva detto che dovevamo fare quella canzone, perché era qualcosa che i tedeschi conoscevano già. È un classico, una canzone che loro studiano a scuola. My Bonnie esplode, è un successo tale da giustificare la realizzazione di un album, album sempre di Tony Sheridan e sempre con i Beatles che lo accompagnano. Il disco viene pubblicato negli Stati Uniti, in Europa, e capita nelle mani giuste, nelle mani di Brian Epstein, che allora era direttore di un negozio di dischi, lo sapete perché ne abbiamo già parlato. Ci sono molte storie su come realmente Epstein sia venuto a contatto con i Beatles. C'è chi sostiene che un loro fan proveniente da Amburgo abbia cercato il disco proprio nel negozio di Epstein a Liverpool. E, insomma, le versioni sono parecchie. Sicuramente, comunque, il merito di questo grande successo iniziale è di Tony Sheridan, e anche della, non solo della sua bravura, ma anche della sua perspicacia, perché ha capito che quei ragazzi andavano seguiti e tenuti d'occhio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando l'epopea del rock, l'epopea del pop degli anni 60, attraverso la storia di uno dei suoi rappresentanti chiave, uno di quelli che ha dato, che ha acceso il motore. Stiamo parlando di Tony Sheridan, un musicista di grande incisività, un cantante meraviglioso, un grande chitarrista, che nel 60 aveva lasciato Londra per andare a Amburgo, nel famosissimo Kaiser Keller, uno dei locali storici storici di Amburgo, nel quartiere di San Paolo, il quartiere a luci rosse, che era diventato il fulcro della rivoluzione musicale destinata a cambiare la storia della musica mondiale. Tony Sheridan ha qualcosa in più degli altri perché ha una grande tecnica, tutti lo chiamano The Teacher, ha molti fan e tra i suoi fan ci sono i musicisti e tra i musicisti ci sono proprio loro, i Beatles, quelli che di lì a poco cambieranno il mondo. In quel momento i Beatles stanno suonando come band di supporto, di accompagnamento a Tony Sheridan. Hanno registrato un singolo, poi un album dal titolo Tony Sheridan e The Beat Brother, e poi dopo i Beatles esploderanno, succede quello che sappiamo, e l'album verrà ripubblicato con il titolo Beatles First nel 64, cioè viene scavalcato Tony Sheridan. In realtà la gente comprava quel disco per sentire i Beatles, ma sentiva la voce di Tony Sheridan. Lui, per esempio, adesso lo ascoltiamo che canta e suona My Bonnie, che ce la spiega, perché dice che la suonavano tutte le sere e tutti la cantavano per ore. Bravura, tecnica, passione, stiamo parlando di una registrazione del 2003. Lui è sempre un grande cantante, un grande chitarrista, e tutti gli esperti di quell'area geografica e di quel mondo hanno voglia di sentirlo come quelle notti di Amburgo. E lì, in quei bassi fondi maleodoranti, nella zona rossa di Amburgo, in un quartiere malfamato, pieno di locali a luci rosse, di cinema porno, di gente discutibile, tutto sta accadendo lì. La storia della musica rock parte da quei vicoli. La musica che derivò da tutto questo nacque perché i musicisti ritornarono poi in Gran Bretagna e misero le basi, così che tutta l'intera scena musicale inglese cambiò proprio per quello che era successo qui. Perché tantissimi musicisti inglesi venivano a questa scuola. Era veramente una scuola di musica. Suonavano tutte le notti e imparavano a ripulirsi e a diventare autentici, veri. E poi ritornavano in Inghilterra e facevano fuori tutti grazie a quello che avevano imparato qui. La rivoluzione musicale britannica è nata qui e ovviamente i Beatles erano parte di questo. Beh, è evidente che se fai il musicista e i tuoi inizi sono stati suonare per 7 ore, 8 ore di notte in un localino del genere, in quella zona ad Amburgo, diventerai uno che ci sa fare, insomma. E il paragone con i giovanotti di oggi, che immediatamente hanno gli ear monitor e se non sentono bene in cuffia non riescono a cantare, è impietoso, insomma, non è colpa di nessuno. Di fatto è chiaro che in quei locali, in quel mondo, si gettavano le basi per poi scrivere la storia, e oggi invece si scrivono solo gli autografi in qualche centro commerciale. Tra l'altro nel 62 Tony Sheridan scrive con Paul McCartney un brano che si chiama Tell Me If You Can, che non vedrà mai la luce fino al 2003, anno in cui Tony Sheridan lo inciderà con un gruppo classico tedesco, lo Chantal Instrumental Ensemble di Michael Hoffman, un gruppo molto prestigioso. Poi i Beatles tornano a Liverpool e parte quel film meraviglioso che tutti conosciamo bene, la Beatlemania invade il mondo. Tony invece è rimasto a Amburgo, rimarrà lì per tutta la vita. Nel 64 ha un giro di vita abbastanza drastico, abbandona il rock and roll, si spinge verso il blues, verso il jazz. Evidentemente è uno che non bada tanto al business, vuole seguire la sua stella musicale. Il suo cambiamento spiazza i fan e lui addirittura esaspera questo filone, pianifica un viaggio negli Stati Uniti del Sud per ascoltare la musica nera originale, per sperimentare le atmosfere che avevano portato alla nascita del blues, del soul. Poi questo viaggio non lo farà mai, però realizza un album che è a metà strada tra il suo stile rock precedente e le sue nuove ispirazioni, un album che si chiama Just a Little Bit of Tony Sheridan. Nel frattempo la sua etichetta discografica, la Polydor, non si lascia sfuggire l'occasione di continuare a riproporre i dischi precedenti, cioè i dischi di Tony Sheridan con i Beatles, per cercare di cavalcare surfare l'onda di grande popolarità della band di Liverpool, che però era sotto un'altra etichetta. Ma Tony Sheridan è già da un'altra parte, è sconvolto dalla guerra in Vietnam, decide di partire per andare a cantare per i soldati che sono lì in prima linea. Però è una decisione coraggiosa che gli riserverà del dolore, non solo per quello che vede, ma anche perché si trova in una zona di conflitto mentre sta cantando. Rimarrà coinvolto in un attacco durante il quale rimarrà ucciso un suo musicista. Addirittura si sparge la notizia che sia morto anche lui, anche Tony Sheridan. Per fortuna, insomma, si scopre che non è così, ma lui torna dal Vietnam toccato nell'anima. Per anni rimarrà sensibile ai suoni troppo forti, non potrà sentire il rumore di uno scoppio, neanche quello di un fuoco artificiale. E per questa sua partecipazione temeraria alla tragedia della guerra verrà nominato capitano onorario dell'esercito degli Stati Uniti d'America. Ma quella del Vietnam non è l'unica posizione scomoda che lui sceglie. Negli anni 70 si schiererà apertamente in favore dell'indipendenza dell'Irlanda del Nord contro la Gran Bretagna, colpevole di una politica di ingerenza drammatica e sanguinosa, e lì tutti la pensavano così, ricordate The Luck of the Irish di John Lennon. Insomma, questo tipo di posizione, se poteva essere tollerata dai Beatles, che intanto facevano soldi a palate, a lui procura grane e sicuramente gli viene precluso lo sviluppo della sua carriera in Inghilterra, e forse proprio per questo motivo lui l'Inghilterra l'abbandona per non tornarci più. All'inizio degli anni 70 parteciperà con Paul McCartney, con Ringo Starr, a una grande commemorazione del Top Ten Club, dove farà rivivere i momenti meravigliosi dei loro primi esordi. E poi lui proseguirà il suo lavoro di musicista, soprattutto in Germania. Verso la metà degli anni 70 presenta un programma radiofonico molto seguito, poi fa altre performance, registra altri album, tra cui uno per la mia stessa casa discografica, e qui ritorna all'episodio che ho accennato all'inizio, di una cena con questo personaggio che mi ha dato soprattutto l'impressione di essere totalmente disinteressato al successo e al denaro, cioè agli elementi più effimeri dell'essere musicista. Era uno che andava dritto all'anima, e queste cose oggi nel mondo della musica di oggi, insomma, si pagano care. L'ultimo album in studio è Vagabond del 2002, poi ci sono molti album live, insomma la sua attività continua fino a quando deve sottoporsi a un intervento chirurgico perché è sofferente di cuore. Purtroppo da quella anestesia lui non si risveglierà, muore a 73 anni, 16 febbraio del 2013, naturalmente nella sua Amburgo, perché Amburgo è la città di Tony Sheridan. In una delle sue ultime interviste ha detto forse la cosa più bella che può dire un musicista. La cosa importante in quel periodo era suonare la chitarra. C'erano anche altri strumenti, ma la chitarra era la più facile da imparare. Per suonare il rock and roll ti bastavano tre accordi e potevi cantare la maggior parte delle canzoni. Noi non facevamo mai una canzone due volte nello stesso modo. La cambiavamo sempre. Nei pomeriggi, prima di suonare, ci trovavamo e ci confrontavamo. Come fai questo? Come fai quello? Facevamo anche blues, non solo rock and roll. Blues, folk, ballate, tutto. Ma veramente noi vivevamo per la musica. Era l'unica cosa che volevamo fare. Suonare, suonare, suonare. E io spero che ci abbia ascoltato anche qualcuno di quei ragazzi che oggi fanno musica spinti da una rivalsa sociale, che fanno musica perché vogliono diventare famosi, vogliono i soldi, vogliono avere le ragazze. Ecco, la musica non è quello. La musica è soprattutto una disciplina che si fa tra amici con il sorriso sulle labbra, che ti rende felici. Se avete questi intendimenti, suonate, se no fatevi da parte. ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno dato un colpo d'ala, hanno lasciato un segno e magari hanno insegnato, come la storia di The Teacher Tony Sheridan, che ha insegnato l'amore per la musica ai Beatles. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al sito radio24.it, oppure venite a cercarmi sui miei social, sui nostri social, Twitter, Facebook, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.